Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buon inizio settimana a tutti i nostri ascoltatori, buona giornata da Deborah Rosciani, buona giornata per modo di dire per chi in questi giorni è alle prese con questa emergenza causata dalle ceneri trasportate dall'eruzione del vulcano islandese dal nome impossibile Eyjafjallajökull. Noi ci siamo sbizzarriti anche stamattina con Alessandro Milan comunque a darlo questo nome di fatto, come avete sentito ripetutamente nei nostri GR, dalle 9 di stamattina blocco dei voli di nuovo dagli scali del nord Italia che erano stati riaperti alle 7, sono rimasti per appena un paio d'ore. E allora noi oggi a Salva Danaio ritorniamo sulla rosa delle tutele, degli standard minimi di assistenza che in questi casi va data a tutte le persone che sono in viaggio e che non possono ovviamente godere del volo pagato, della vacanza prenotata. Questa rosa di tutele è stabilita per chi viaggia chiaramente dalle normative europee, dalla carta dei diritti del passeggero che è stata elaborata dall'ENAC, ma già da ieri alcune associazioni dei consumatori stanno cominciando a denunciare che alcune compagnie starebbero facendo dei problemi e non rimborserebbero integralmente il prezzo del volo non goduto. Allora vedremo un po' di capire dove stanno, come stanno realmente le cose. Stamattina qualche alcune denunce sono già arrivate per esempio a Confconsumatori e noi abbiamo prontamente interpellato intanto l'avvocato Carmelo Calì, componente dell'esecutivo nazionale di questa associazione dei consumatori. Avvocato Calì, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie di essere con noi. Sentiremo poi anche Alitalia in diretta per capire come stanno gestendo con i passeggeri queste ore, come è stato potenziato il servizio di informazioni, di assistenza, i programmi di riprotezione per i viaggiatori. Siccome deve lasciarci, io allora lo interpello immediatamente, il dottor Clemente Senni, direttore delle relazioni esterne della nostra compagnia. Dottor Senni, buongiorno. Buongiorno. E allora poi vi anticiperò anche chi sono gli altri nostri ospiti, perché ovviamente la situazione anche per i tour operator è difficilissima in queste ore. Allora, il vostro comunicato stampa delle ultime ore ribadiva che a tutti i passeggeri coinvolti dalle cancellazioni dovute all'eruzione vulcanica viene garantito il rimborso integrale del biglietto. Dottor Senni, ce lo conferma? Lo confermo, sottolineo anche che dalle primissime fasi di questa crisi che ha iniziato a interessare l'Italia giovedì della settimana scorsa, noi da subito abbiamo chiarito che il rimborso verrà garantito a tutti quanti ne facessero richiesta, evidentemente di quelli coinvolti dalle cancellazioni per gli scali che conosciamo, quindi Nord Europa e Nord Italia. Ma non solo, il biglietto acquistato indipendentemente dalla classe tariffaria verrà considerato valido fino al 31 maggio qualora si decidesse di partire in un altro momento. Ecco, infatti, dottor Senni, perché il problema è che ci eravamo posti anche con un altro esperto in un'altra trasmissione questa mattina, ammettendo che per esempio un volo con voi mi sia stato cancellato ieri mattina, io in tutta fretta non sono magari andata al vostro banco dell'aeroporto per chiedere informazioni e ho così cercato subito una soluzione alternativa, per esempio proiettandomi alla stazione centrale di Milano. Faccio l'ipotesi che tutta questa emergenza si sia verificata appunto per un utente di transito a Milano. In quel caso, la richiesta successiva del rimborso del volo non goduto è possibile farlo ugualmente? Ecco, perché di solito la questione dei tempi è molto importante. Assolutamente valida, anzi noi abbiamo anche potenziato le strutture sia internet che call center proprio per richiedere i rimborsi. Per chi già sa che intende richiedere rimborso, quindi non usufruire di quel biglietto in una seconda fase, abbiamo pregato di contattare il call center a partire da domani, ma più che altro perché in questo momento stiamo ricevendo, nonostante abbiamo quadruplicato l'organizzazione del call center in termini appunto di personale, di linee, stiamo ricevendo, come potete facilmente immaginare, un quantitativo di telefonate, di richieste di informazioni assolutamente straordinario. Quindi chissà che vuole limitarsi a richiedere rimborso, se può aspettare uno o due giorni sarebbe meglio per tutti, certo, anche per lui stesso. Abbiamo poi istituito anche un numero verde che vorrei approfittare. Senz'altro, poi lo ribadiremo anche nel corso della trasmissione. Prego, dottor Senni. Che è 800 650 055, ma più che altro per richiedere, per verificare l'operatività del proprio volo. Per tornare ai rimborsi, Adesso esiste anche una casella email alla quale si può scrivere, specificando ovviamente il proprio nome, il numero del volo, anche un recapito telefonico, che è assistenza@alitalia.it. Io avevo visto che voi avevate dato questa modalità di procedere per chiedere il rimborso del prezzo del volo nel caso in cui il biglietto fosse stato acquistato attraverso internet. La procedura mi pare che sia stata indicata come diversa, però se il biglietto è stato acquistato presso un'agenzia di viaggio? Sì, inevitabilmente, cioè il biglietto, il rimborso è garantito a tutti, però va richiesto allo sportello, chiamiamolo così, presso il quale si è acquistato. Quindi se si è acquistato attraverso l'agenzia è necessario richiederlo attraverso l'agenzia. Se si è acquistato direttamente con Alitalia attraverso call center o attraverso il sito internet, si richiede il rimborso direttamente ad Alitalia. Ecco, noi ci siamo soffermati solo ed esclusivamente sul tema rimborso del biglietto, ma è chiaro che il passeggero può anche scegliere il volo alternativo, la possibilità di riprogrammare, ecco, questo non l'abbiamo ricordato, senza alcuna penale. Anche in questo caso il termine fissato penale, è... Nessuna penale per la stessa destinazione. Al limite anche con un itinerario diverso, se immaginiamo un volo che comprendeva, come dire, un viaggio che comprendeva due voli, anche se dovesse cambiare l'itinerario, ma la destinazione finale è la stessa, fino al 31 maggio, indipendentemente dalla classe tariffaria, quindi anche quelle molto scontate che non consentirebbero, sono comunque valide e verranno comunque assicurate. Allora, dottor Seni, io questo poi naturalmente lo ricorderò molto precisamente con l'Associazione dei Consumatori. Questo è un frangente straordinario anche per voi, pertanto parliamo di rimborso integrale del biglietto in caso si rinunci a un volo alternativo, la possibilità di riprogrammare il volo, ma in questi casi, data l'eccezionalità dell'evento che ha colpito tutti i voli d'Europa, non è provvisto un indennizzo aggiuntivo rispetto al volo solo, perso. Certo, anche non tutte le compagnie, mi lasci dirlo, hanno risposto, diciamo, con la nostra prontezza in termini di trasparenza e di garanzia del rimborso. Noi abbiamo deciso di farlo, nonostante la normativa che esista, in particolare quella che riguarda trasporto aereo, il regolamento comunitario 261, non preveda in qualche modo uno scenario di calamità naturale, se lo vogliamo chiamare così, comunque uno scenario così insolito e straordinario. Però i nostri passeggeri, voglio appunto ribadire, avranno il rimborso, avranno la validità del biglietto fino al 31 maggio. Dottor Seni, grazie, buon lavoro. Grazie, so che sono momenti molto concitati per le vostre postazioni presso tutti gli aeroporti. Buona giornata. Ricordo il numero verde che Alitalia ha prontamente istituito appunto per questa emergenza, è l'800 650 055, per fare la richiesta via internet del rimborso integrale del biglietto nel caso decidiate di rinunciare a voli alternativi. Ha la possibilità di riprogrammare il volo. L'indirizzo è assistenza@alitalia.it. Avvocato Calì, buongiorno. Buongiorno. Ci è mancato. E ovviamente in un'emergenza come questa dovevamo subito rimetterci in contatto con lei, perché a Confconsumatori già risulta che alcune compagnie aeree stiano facendo di tutto per essere così sollecite rispetto a come ha fatto per esempio Alitalia sul pagamento dei voli non goduti, o per pagare addirittura propongono somme inferiori a quelle dovute. Io ho questo comunicato stampa che voi avete diramato questa mattina. Vi risulta che anche qualche cliente di Alitalia sia incappato in una disavventura di questo tipo? Ma, diciamo, non è che dobbiamo subito smentire quanto il dottor Seni ci ha detto poco fa? Ma diciamo che c'è qualche dichiarazione di Alitalia che è stata contraddittoria ieri mattina, tra le dichiarazioni del GR delle 7 e del GR delle 8 di rappresentanti di Alitalia, diciamo che si è registrato un assestamento delle posizioni nella seconda edizione. Quindi da questo punto di vista noi sappiamo ben lieti che l'Alitalia continua ad allinearsi a quelle che sono le previsioni del regolamento. Ecco, ma voi quali compagnie, i vostri associati hanno denunciato che il comportamento di questo tipo è stato attribuito, insomma, a quali compagnie? Ma diciamo non ci sono delle compagnie specifiche, noi abbiamo constatato sulla base di quelle che sono le dichiarazioni che abbiamo letto sulla stampa, quindi abbiamo rilevato un dato che emergeva sulle seconde giornalistici, su tutto, vediamo che c'è stato qualche assestamento da questo punto di vista, qualche dichiarazione sulla quale per esempio registriamo il silenzio sulla questione dell'assistenza. L'assistenza ai passeggeri in aeroporto è dovuta e quindi è un obbligo da parte di tutte le compagnie aeree e quindi di fronte a queste circostanze. Quindi quando parliamo di assistenza parliamo di pasti e bevande, come dice il regolamento, in congrua relazione alla durata dell'attesa. Parliamo di ospitalità in albergo e di trasferimento da e per l'aeroporto, e parliamo anche della possibilità che deve essere data ai passeggeri in aeroporto di fare due tra telefonate, email, fax, eccetera. Ecco, questo fino ad oggi è stato dato parzialmente, è stato fornito parzialmente. Però credo che un'emergenza di questo tipo, avvocato, sia stata assolutamente imprevedibile nella portata, per cui forse garantire un'adeguata assistenza, io capisco le perplessità delle associazioni dei consumatori, però lei non trova che comunque un'emergenza di questo tipo era... Certamente è un'emergenza particolare, però rispetto alla quale bisogna trovarsi pronti. Va bene, comunque insomma adesso al momento di totale indisponibilità delle compagnie o comunque di mancanze gravissime nei termini di assistenza ancora non abbiamo notizie. È chiaro che qualche meccanismo potrà essersi inceppato in qualche aeroporto. Noi aspettiamo magari qualche segnalazione da parte dei nostri ascoltatori all'800240024. Un'ascoltatrice ci chiede informazioni relativamente alle richieste di rimborso di riprenotazione di Ryanair. Adesso magari cercheremo di documentarci al volo, però il fatto che si tratti di compagnia low cost piuttosto che di un'altra compagnia, le procedure sono standardizzate, sono le stesse, per cui Ryanair deve garantire tutti gli stessi diritti che offrono anche le altre compagnie. Allora, gli altri ospiti che sentiremo: Roberto Corbella, presidente della STOI, l'associazione dei tour operator, perché naturalmente molte persone sono impossibilitate a partire per la vacanza, molte persone sono impossibilitate a rientrare dal luogo della vacanza che hanno trascorso recentemente. Per l'associazione questo è un grosso problema, sentiremo come la stanno gestendo. E poi il tema del lavoro: chi non si presenta al lavoro in questi giorni, come gestisce queste giornate perse? Sono giornate di permesso, sono giornate che l'azienda è autorizzata anche a non retribuire? Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Anche Salvadanaio affronta l'emergenza dei cieli e soprattutto i disagi di tutti i viaggiatori. Di questi giorni ne hanno dovuto subire davvero tante. Allora stiamo cercando di capire come le compagnie aeree stanno rispondendo a questa emergenza, perché anche oggi voli bloccati sugli scali nel nord Italia e ovviamente nella tempesta anche i tour operator, perché ci sono molte persone che hanno intanto l'impossibilità adesso di partire se avessero prenotato delle vacanze. C'è anche la situazione di chi invece non riesce a rientrare, se sta concludendo la vacanza deve allungarla, chi paga questo allungamento, come se ne incaricano anche di queste spese i tour operator. Il presidente di STOI, che è l'associazione dei tour operator italiani, presidente Corbella, anche presidente Corbella deve lasciarci entro qualche minuto. Stamattina avete chiesto un intervento molto deciso e tempestivo da parte del governo, le chiedo però intanto come state rispondendo ai tanti viaggiatori bloccati rimasti in Italia da un'emergenza come questa. Voi avete detto: proponiamo o un cambio della data di partenza o quali altre alternative? Buongiorno a tutti. Allora, la situazione è effettivamente molto pesante, direi, tanto per dare un'idea, decisamente più pesante di quello che è stato l'11 settembre, di cui tutti ricordiamo, perché quello riguardava un territorio che era gli Stati Uniti, questo riguarda l'Europa e soprattutto gli aeromobili sono rimasti bloccati in tutta una serie di scali. Quindi una cosa che qualche volta non è facilmente comprensibile è che anche passeggeri che devono partire magari da aeroporti che non sono toccati in questo momento dalla chiusura hanno difficoltà ad operare regolarmente, perché magari o l'equipaggio o l'aeromobile è rimasto bloccato in uno degli aeroporti del nord Italia o uno di quelli dell'Europa. Quindi il fenomeno riguarda, per quanto riguarda i pacchetti, decine di migliaia di passeggeri, sia tra quelli che devono partire sia tra quelli che sono già nelle località di vacanze e dovrebbero rientrare. Ieri e sabato sono stati operati alcuni voli alternativi per rimpatriare i passeggeri che erano in questi posti di vacanza, che avevano finito il loro turno e sono stati portati sullo scalo di Fiumicino essenzialmente, e poi da lì con grossa difficoltà e con grossa onerosità per i tour operator riportati alla destinazione finale con mezzi di superficie. Questa è l'azione che stiamo cercando di fare nei confronti dei passeggeri che devono rientrare dalla vacanza. Per quelli che devono partire il messaggio è: Purtroppo gli annunci si susseguono e cambiano. Noi avevamo avuto conferma ieri sera dell'apertura degli aeroporti da questa mattina alle 7, poi invece c'è stata la nuova notizia del blocco fino a domani mattina alle 8. Questo quindi ha vanificato tutte le pianificazioni che erano state fatte. L'unica cosa che possiamo dire a coloro che devono essere in partenza è di tenersi in costante contatto con le autorità, vedere le informazioni che anche la stampa dà, per essere pronti a cogliere la situazione appena si riapre. Esatto, no, tra l'altro poi anche un altro suggerimento, Presidente, è chiaro che si opera, e questo riguarda tutti, nella totale incertezza, perché magari ecco domattina alle 8 i voli nel nord Italia dovrebbero essere ripristinati ovunque, ma potrebbe ripetersi quello che è accaduto questa mattina, dalle 7 alle 9 voli completamente operativi e poi alle 9 di nuovo blocco. Il suggerimento per esempio per chi dovesse partire domani mattina è in ogni caso ovviamente tenere oggi sotto controllo tutta la situazione, ma comunque presentarsi all'aeroporto? È sempre bene avere un contatto diretto? Assolutamente sì, allora gli operatori sono pronti a rimettere in moto tutta la macchina e partire il più presto possibile, questo nell'interesse di tutti i passeggeri e di tutto il sistema. È chiaro, come ha detto lei, che noi non abbiamo consapevolezza di quello che succederà. Io ieri sera alle 10:15 avevo avuto rassicurazioni dalle nostre autorità che gli aeroporti sarebbero stati riaperti, questa mattina alle 6 c'è stato il nuovo bollettino meteo che ha cambiato la situazione. Quindi allo stato attuale non possiamo far altro che consigliare di tenersi informati e, se le informazioni permangono quelle attuali, per tutte le partenze di domani presentarsi regolarmente in aeroporto. Ecco, per esempio, Presidente, se nell'incertezza, ammettiamo che nella migliore delle ipotesi domani si riprenda a volare ovunque in totale regolarità, ma oggi si vive ancora una giornata di totale incertezza, ammettendo che un viaggiatore in questa incertezza decida comunque magari di chiamare il suo tour operator e dirgli: guarda, io nell'incertezza decido comunque di annullare la vacanza e spostare la data, può farlo secondo lei nelle totale garanzie da parte vostre? Allora, rispondo in questo modo: in una situazione di emergenza come questa che si è creata, che è abbastanza unica, non ci sono obblighi così stretti. Rispetto a quello che è stato detto prima, che addirittura dice il passeggero avrebbe diritto alle telefonate piuttosto che altre cose, attenzione, lo stesso Presidente Riggio dell'ENAC ha chiarito: un conto è la restituzione eventualmente dei fondi, un conto è qualsiasi forma di penalizzazione, eccetera. Questo è del problema vero che noi abbiamo sollevato chiedendo oggi al Governo un intervento. Il settore non ce la farà a continuare a farsi carico, quindi i singoli operatori stanno facendo l'impossibile per dare la massima assistenza ai passeggeri, sia per rimpatriarli sia per offrire alternative di partenza, rimborsi ai passeggeri. Il rischio è che col prolungarsi di queste cose il sistema collassi. Non dimentichiamoci che usciamo dal 2009 di pesante crisi, non dimentichiamoci che c'è stata prima questa non ci voleva suina, davvero. E quindi questa ennesima situazione comporta oneri di milioni di euro per il settore, un settore che non ce la fa, e parlo sia delle compagnie aeree sia dei tour operator. Quindi attenzione a, prima di tutto, usare buon senso. Qui siamo in presenza di qualcosa di dimensioni inusitate e soprattutto, come ha sottolineato lei, assolutamente imprevedibili, quindi vanificano qualsiasi programmazione. Ci vuole un po' di pazienza da parte di tutti, immagino, un po' di rassegnazione anche, però insomma poi chiaramente ripetiamo gli standard minimi di assistenza a tutte le persone coinvolte loro malgrado in questa emergenza devono assolutamente essere garantiti. Ovviamente tutti si adoperano per farlo, ma è facile anche comprendere come la quantità di passeggeri presenti negli aeroporti rende più difficile anche un'assistenza di buon livello. Noi peraltro approfittiamo dell'occasione per dire una cosa che sollecitiamo da anni: dobbiamo dotarci di un fondo di garanzia vero che consente in questo caso di poter dire con serenità ai passeggeri, come suggeriva lei, bene, puoi avere il tuo rimborso, bene, scattano degli aeroplani diversi che partono anche da altri scali per andare a riprendere quelli che sono fuori, operazioni che sono costosissime. Pensiamo a passeggeri che sono nei Caraibi, che sono in Africa, che sono destinazioni dove ci sono 8-10 ore di volo e quindi il cui costo per andarli a riprendere è elevatissimo. Ripeto, non può gravare esclusivamente sulle spalle di tour operator. Chiarissimo, Presidente, ci risentiremo sicuramente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, per capire insomma come procede la situazione. Buon lavoro intanto, a presto. Grazie a tutti voi. Arrivederci. Volevo salutare nel frattempo l'avvocato Gabriele Fava dello studio Fava e Associati di Milano, esperto di diritto del del Lavoro. Avvocato, buongiorno, grazie buongiorno di essere intervenuto anche lei nella nostra trasmissione. Le riservo, se ha ancora qualche minutino di pazienza, l'ultima parte di Salva Danaio fra qualche minuto, perché volevo sentire anche qualche testimonianza di qualche ascoltatore e poi ritornare all'avvocato Calì. Roberto da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io sono in macchina tornando da Londra sostanzialmente. Sì. Ero partito con un pacchetto comprato volo più albergo su Expedia. Sì. Con un volo Lufthansa, avendo visto, non ero neanche a Londra, a Birmingham, ma avendo visto sul sito della Lufthansa, in questo internet è stato essenziale, sul sito della Lufthansa era chiaramente citato il fatto che chi volesse rinunciare al viaggio, vista la situazione, avrebbe avuto il rimborso della parte del viaggio che non aveva effettuato. Mi sono rivolto al banco Lufthansa in aeroporto, siccome il mio volo era comprato attraverso un tour operator, ho mandato un'email al tour operator che a strettissimo giro di posta mi ha risposto che avrebbe interpellato il vettore per avere il rimborso e rigirarmelo. Quindi si tratta di un tour operator molto grande che ha dimostrato, pure in questa circostanza, anche in via solamente telematica, comunque ha dimostrato di rispondere in maniera immediatamente. Quindi Roberto, lei sta tornando da Londra adesso con che mezzo? Allora, io sono riuscito a prendere un Eurostar fino a Parigi ieri mattina e poi ho noleggiato un'auto. Quindi sono in viaggio da ieri in macchina. Insomma, un viaggio della speranza, però Roberto, sento che quantomeno è stato anche, come dire, adottato tutte le iniziative necessarie, spirito anche costruttivo, io capisco. Poi abbiamo visto anche sui giornali in questi giorni tante scene di panico e mi rendo conto che magari qualcuno è un po' meno pronto a gestire queste emergenze, ma se si viaggia, purtroppo bisogna anche rendersi conto che ovviamente non magari un vulcano che esplode in questa maniera, ma qualche emergenza può capitare, quindi bisogna essere anche pronti a poter individuare ed intercettare subito i canali per potersi rivolgere all'assistenza della compagnia aerea, del tour operator, appunto. Quindi magari partiamo in genere ben predisposti in questo senso, con tutti i numeri che ci potrebbero servire in caso di emergenza, con la carta dei diritti del passeggero, e quindi magari da questa situazione molto proprio all'insegna dell'emergenza possiamo prendere anche tutte le regole di base per viaggiare nella maniera appunto più sicura e serena possibile. E io direi di fermarmi adesso, oppure riusciamo a sentire rapidamente la domanda di Massimiliano da Treviso. Sentiamo Massimiliano, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, una cosa velocissima, ho sentito sempre parlare degli standard minimi dei tour operator piuttosto delle compagnie aeree, ma niente a riguardo degli alberghi, nel senso che io mi trovo ad avere un volo più un soggiorno prenotato, con l'incertezza di tutti ovviamente della partenza, ma l'eventuale rimborso da parte dell'hotel è un diritto, sarà possibile? Dove deve andare Massimiliano? A Barcellona. A Barcellona, lei per esempio li ha sentiti, perché immagino che anche là siano totalmente consapevoli di quello che sta accadendo in tutta Europa. No, in realtà non ho ancora sentito perché la mia partenza è fra un paio di giorni. Ma, no, tra l'altro potrebbe anche essersi ripristinato tutto regolarmente. Esatto, per cui... ma la curiosità mi è venuta riguardo. Va bene, ci riflettiamo su un attimo. Avvocato Calì, eccomi di nuovo a lei. Massimiliano Treviso ci ha chiesto insomma questo pacchetto per andare a Barcellona, in realtà parte fra un paio di giorni, speriamo che possa partire regolarmente, però insomma lui ha sentito tutte le tutele che ci spettano in qualità di passeggeri di un volo aereo, ma in qualità di cliente di un hotel. Ma diciamo che bisognerebbe vedere sempre se è stato acquistato all'interno di un pacchetto turistico o meno, perché se è stato acquistato all'interno di un pacchetto turistico bisognerebbe capire raccordarsi col tour operator. Se invece è acquistato direttamente dall'albergo, cioè prenotandosi autonomamente in questo albergo, bisognerebbe verificare la normativa, che non è quella italiana. In ogni caso vale la questione che c'è una causa che giustifica la disdetta. È una causa abbastanza nota e diffusa appunto su tutta l'Europa, e quindi a mio avviso la disdetta, anche se formulata a ridosso dell'arrivo, non può giustificare una pretesa da parte dell'albergo di una somma anche a titolo di penale, diciamo. Ecco, quindi se ha pagato delle somme potrebbe avere diritto a rimborso, se non ha pagato nulla può in ogni caso non corrispondere nulla e formulare la disdetta. Allora, però insomma, magari una telefonatina all'hotel Massimiliano, forse per non saper né leggere né scrivere, come si suol dire in questo caso, con questo hotel, è bene che la faccia, magari gli scriva, forse carta canta è anche meglio, e così chieda un po' qualche informazione su come intendono comportarsi in questa emergenza. Se lei decidesse per esempio domani di non partire, se le tutele appunto che questo hotel le garantisce sono diverse rispetto ad una decisione presa oggi, insomma, magari Massimiliano comunque si faccia sentire. Avvocato Fava, sono a lei. Allora, tanto per cominciare, la stamattina l'assenza dal lavoro per chi non è riuscita a raggiungere, magari si trova in qualche aeroporto d'Europa, capitato per esempio a due miei colleghi, Sergio Nava non riesce a rientrare da Londra, così come un'altra collega, l'assenza dal lavoro stamattina è giustificata? Ma direi di sì, questo è il classico causa, è la classica causa di forza maggiore, cioè quando è una causa indipendente dalla volontà delle parti, sia del datore che del dipendente. Quindi in questo caso, in questa ipotesi è assolutamente giustificata, tanto più quando si verifica in casi di tutto eccezionali. Però è bene ovviamente che il dipendente, io immagino che tutti lo abbiano fatto, si faccia sentire col datore di lavoro. Se questo eccepisce, come dire, il fatto che per lui non è comunque un'assenza giustificata e magari dice io in ogni caso questa giornata non te la retribuisco, comunque te la assegno come permesso non retribuito, ha ragione? Ecco, rischia fortemente di sbagliare. Perché? Perché essendo una causa un'assenza giustificata, non può interrompere o addirittura non pagare la parte retributiva, il profilo retributivo. Quindi buona norma, lo diceva lei un attimo fa, senz'altro da parte del dipendente, questo è il buon senso che ce lo insegna, di avvertire, dire insomma quali sono i motivi ostativi al suo rientro e per quanto tempo, se mai fosse possibile. In questa maniera blocca qualsiasi tipo di azione nei suoi confronti da parte del datore di lavoro. Quindi il datore di lavoro non può intervenire bloccando, non pagando. E per la verità c'è un vecchio antico orientamento che aveva un suo senso. Escludeva addirittura l'obbligo del datore dal corrispondere alla retribuzione. Quindi parliamo di rapporto di lavoro che resta in essere, ma per quell'assenza, ancorché giustificata, ma non dipendente dalla volontà delle parti, quindi né del dipendente né del datore, il datore poteva non corrispondere alla retribuzione. Perché? Perché il cosiddetto famoso rischio d'impresa non può essere esteso ad altri eventi non connessi a attività aziendale e non dominabili dall'imprenditore medesimo, quindi questo potrebbe essere quel caso. Però ecco, un vecchio orientamento. In generale è difficile non corrispondere la retribuzione al dipendente in questi casi. E se il lavoratore, mancando questa mattina per questa situazione di totale emergenza, abbiamo detto più volte, e ammettendo appunto che l'assenza si possa considerare come giustificata, perché lo è ovviamente, ma avesse magari mancato un importante appuntamento del lavoro, di lavoro, danneggiando in questo caso l'azienda. L'azienda potrebbe rivalersi. Vale sempre quello che abbiamo detto. Unica alternativa qual è? Io non posso rientrare, non ho alternative a questo rientro. Quindi, ad esempio, non sono riuscito a prendere un treno, non sono riuscito a prendere una macchina, non sono riuscito a prendere, che so io, un taxi, dico per dire. Lo dico appositamente perché ad esempio su questi aspetti deve trovare l'accordo delle parti, quindi è il datore di lavoro che, se per lui è fondamentale, imprescindibile la partecipazione del suo dipendente a determinati incontri che potrebbero portare un danno, dovrà essere lui a invitare il dipendente a tornare in qualsiasi modo e a qualsiasi costo, come si vuol dire, cioè accollandosi anche i costi magari altamente onerosi di un rientro, ad esempio, non a caso che dicevo prima, con un taxi o con la macchina. Ma guarda, tra l'altro, a parte il taxi, di cui i giornali hanno segnalato in questi giorni comportamenti non tanto virtuosi in certe città, pure di lì se ne sono approfittati, ma magari di questo tema torneremo a parlare. La puntata mi è volata, io non riesco a sentire Claudio da Latina, che voleva difendere le compagnie aeree perché dice insomma tutte queste lamentele, ma se il vulcano si è risvegliato non è certo colpa loro. Certo Claudio, però a parte il vulcano ci possono essere anche per esempio delle condizioni meteorologiche particolarmente devastanti, come un'enorme nevicata, e di questo le compagnie aeree devono sapere che può succedere in sostanza, per cui ripeto, ci sono degli standard minimi di assistenza dai quali non si può assolutamente prescindere. Poi Cecilia dalla provincia di Roma, che ci voleva raccontare che invece in assistenza in aeroporto a Torino non ha trovato nessuno. Cecilia, magari ci scriva questo caso e ci farebbe potremo dare qualche suggerimento su come si può comportare da parte delle associazioni dei consumatori che continuiamo ad interpellare. Il Salone del Risparmio, 21, 22, 23 aprile a Milano, quindi questa settimana. Ritorniamo ancora sulle nostre parole del risparmio. La parola di oggi è monitoraggio. Radio 24 e Assogestioni vi presentano Le parole del risparmio. Una volta scelto il proprio investimento, è necessario tenerlo sotto controllo e quindi conoscere tutti i canali di informazione a disposizione per poter monitorare al meglio l'andamento del vostro portafoglio. Al giorno d'oggi esistono innumerevoli canali informativi, dai più basilari ai più professionali, e sono questi di fatto gli strumenti di lavoro quotidiani al servizio di un investitore, piccolo o grande che sia, non fa differenza. L'informazione e in seguito il monitoraggio del capitale investito diventa quindi la materia prima nella gestione del proprio risparmio. Dai semplici quotidiani economici ai siti specializzati fino alla stessa banca o società di gestione a cui vi siete affidati, tanti sono i mezzi a disposizione dei risparmiatori per tenere sotto controllo il portafoglio. L'andamento dei vostri titoli può di fatto essere seguito quotidianamente attraverso i principali mezzi di informazione finanziaria. È importante ricordare però che in questo campo la comprensione di tutte le dinamiche in gioco non è immediata. Il miglior consiglio quindi è, se si ha qualche dubbio, meglio farsi aiutare da gestori e società specializzate. Le parole del risparmio. E allora abbiamo terminato anche la puntata di Salvadanaio di oggi. Tante le informazioni che abbiamo cercato di darvi, e comunque consultate la carta dei diritti del passeggero qualora siate così alle prese magari con una compagnia aerea che non vuole garantirvi gli standard minimi di assistenza se siete stati colpiti dalla nube del vulcano islandese, quindi siete in difficoltà in qualche aeroporto italiano. Torneremo magari con una trasmissione su questi argomenti al più presto, se la situazione non dovesse migliorare nelle prossime ore. Da Deborah Rosciani, buona giornata. We'll be right back.